9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, il tema di oggi è per così dire, per un convinto sostenitore del libero mercato come me, obbligato, perché ieri si è tenuta la relazione annuale al Parlamento dell'autorità per la concorrenza, altrimenti detta antitrust, e l'autorità in questo appuntamento annuale fa una specie di riflessione complessiva dello stato dell'avanzamento o del regresso di questa grande caratteristica senza di cui il libero mercato non è in condizioni di sprigionare i suoi effetti positivi, e cioè la concorrenza. La concorrenza è la classica materia che nega validità a coloro che dicono che noi sostenitori del libero mercato siamo per la mano invisibile, per gli animal spirits, perché siamo convinti che esista solo il darwinismo di chi è più forte, come individuo, di chi è più forte come impresa. Al contrario, la concorrenza è il classico esempio di come il libero mercato esista in quanto ha delle regole, che devono essere delle buone regole, che per convenzione di norma e per capacità di osservanza da parte di autorità indipendenti sono il mercato, perché il mercato è fatto da regole, e queste regole servono appunto a garantire, secondo le diverse concezioni della concorrenza che esistono in dottrina, in buona sostanza che cosa? Che non ci siano ostacoli troppo elevati all'ingresso in un'attività da parte di un nuovo soggetto rispetto a chi lo esercita da sempre, da lungo tempo, e si è organizzato in maniera tale da mettere dei paletti, e quindi c'è questo primo aspetto, che è quello di evitare gli ostacoli all'ingresso. C'è un altro aspetto, che è quello di evitare ciò che fin dai tempi di Adamo Smith si diceva degli imprenditori, che tendono a fare cartello monopolio, quindi bisogna avere molta attenzione, occhio e orecchio attente per le pratiche collusive dei cartelli, ed evitare che si comportino in maniera tale ovviamente da estrarre rendite invece che da dare un beneficio ai propri clienti, offrendo sempre migliori servizi in gara di miglior qualità e a più basso prezzo nel medio-lungo termine. Esiste poi una terzo settore, che è quello degli abusi di posizione dominante, che non ha a che vedere solo con le intese collusive, ma che bisogna sorvegliare, perché ogni impresa nel suo settore non diventi titolare, per così dire, di un potere di preminenza improprio rispetto ai suoi concorrenti, e ancora in questo caso, ancora una volta, nei confronti dei suoi clienti. E la concorrenza, poi l'autorità per la concorrenza, ha negli anni ha acquisito tante competenze aggiuntive, è diventata il garante della concorrenza anche in materia bancaria. Nel nostro ordinamento era la Banca d'Italia, si deve occupare della disciplina pubblicitaria, della trasparenza dei messaggi pubblicitari. Insomma, l'autorità per la concorrenza è un presidio che dovrebbe essere visto da ciascuno di noi come cliente, come consumatore, come imprenditore in lotta contro altri imprenditori, come uno dei più potenti bastioni dell'efficacia del nostro ordinamento, perché non si cresce senza concorrenza. La concorrenza non è una dote da scoprire solo quando le cose vanno bene e da invece buttare nell'angolo quando poi c'è la crisi. Allora si scopre che è meglio essere nazionalisti, protezionisti, far stabilire tutto alla politica, non fare le gare, come purtroppo nell'Europa e in Italia anche in questi anni di crisi è regolarmente accaduto. Regolarmente ogni paese ha ritirato fuori interventi di questo tipo, dal salvataggio delle banche alla tutela di questo o quel settore, ciascun paese comportandosi in maniera diversa, dal ritorno del capitale pubblico in molti settori, a cominciare dall'automobile in Francia per esempio, e così via. Ogni paese dice, di fronte alla crisi, la concorrenza è un lusso. È proprio giusto o è sbagliato? È sbagliato, ed è sbagliato tanto più in un paese come il nostro, che alla disciplina della concorrenza, all'istituzione di un presidio indipendente perché la concorrenza sia osservata, è arrivato tardi e peggio degli altri. Ed ecco perché la relazione annuale del presidente Antonio Cantricalà di ieri rappresenta, secondo me, una occasione strepitosa per fare una riflessione su questo paese. Io chiedo a voi, innanzitutto, perché il presidente Antonio Cantricalà sarà con noi in tutta la trasmissione, di qualunque sia l'interrogativo che avete a casa, perché la cosa vi riguarda se siete depositante di una banca e avete l'impressione che anche lì ci sia qualcosa che non vi torna dal punto di vista dell'offerta bancaria di altri istituti, un po' troppo omologa, se avete domande sulla concorrenza telefonica fissa e mobile, se l'avete come passeggero delle ferrovie rispetto al trasporto locale o a quello nazionale. rendetevi conto, in realtà l'autorità della concorrenza dovrebbe essere il primo vostro pensiero, molte volte, molte più di quanto voi non pensiate. Allora chiedete, se volete, il numero di telefono 800 24 00 24 al presidente Antonio Catricalà, che ne pensa, se ha delle risposte da darvi, e un po' anche qual è il suo bilancio, perché con, la relazione di ieri è arrivato al termine di un mandato che secondo me ha svolto bene, l'ha svolto molto bene. E allora, nel salutarlo, buongiorno presidente. Buongiorno a lei, non si ascolta. Io un piccolo omaggio che vi facciamo è quello di cominciare con pochi secondi di un passaggio che in realtà è relativo ad anni fa, è sempre lei a parlare, proprio per trarre uno spunto e per vedere di iniziare a dire agli ascoltatori se lei come la pensa alla fine, se è soddisfatto o meno di quello che è stato possibile fare, o se non solo un pochino se non ho un po' di ragione nel ritenere che purtroppo, malgrado i vostri sforzi, le cose mi sembra che siano andate più indietro che avanti. Non in tutti i settori, molti si è fatto qualche passo avanti, ma ultimamente il mio bilancio è un pochino purtroppo di grande preoccupazione. Sentiamo cosa diceva 4 anni fa il presidente Catricalà. Si registra oggi con preoccupazione una fase di stallo. Le lobby si riorganizzano e trovano appoggi nei due schieramenti politici. Per superare l'impasse è necessaria la ricerca di un più vasto consenso sui motivi delle scelte da compiere, sugli obiettivi finali delle riforme. Ecco, rispetto a questo giudizio di 4 anni fa, presidente, oggi il giudizio che ha espresso non è che sia molto diverso, no? Non è cambiato, anzi devo dire che c'è stato un regresso. Noi abbiamo avuto un periodo che molto felice fu chiamato delle lenzuolate, a me non piace questo termine. Noi abbiamo avuto un periodo in cui il mio istituto è stato fortemente potenziato, ha avuto la concorrenza bancaria, e questo da un governo di centrodestra, poi ha avuto dal governo di centrosinistra la possibilità di chiudere le istruttorie accogliendo impegni di comportamenti virtuosi da parte dei monopolisti, ha avuto la possibilità di intervenire d'urgenza, come abbiamo fatto per esempio quando si volevano bloccare le parafarmacie, o come quando le banche avevano tentato di ridurre la possibilità per i cittadini di uscire gratuitamente dal contratto di conto corrente bancario. Abbiamo avuto la possibilità di avere anche noi i programmi di clemenza, che sono sostanzialmente dei programmi attraverso i quali noi otteniamo delle confessioni spontanee da parte di imprese che partecipano a cartelli segreti, cioè a intese sul prezzo del finale del prodotto. E dopodiché, poi abbiamo avuto naturalmente di nuovo dal centrodestra la possibilità di vigilare sui servizi pubblici locali e sul loro affidamento in house. Dopodiché, che cosa è successo? Da una parte c'è stata, dopo le liberalizzazioni nelle professioni e in alcuni settori importanti del commercio, e per esempio le farmacie che ho appena citato, ma anche le assicurazioni, un riorganizzarsi delle categorie che erano rimaste sorprese dalla velocità con le quali alcune cose erano avvenute. E poi queste sono organizzazioni forti, quando noi parliamo di grandi ordini professionali, parliamo di grandi federazioni di professionisti, farmacisti, insomma parliamo di forti lobby. È chiaro che questa reazione, che è stata, ha avuto il tempo di organizzarsi, di avvicinare il potere politico, cioè noi l'abbiamo contrastata molto. Perché finora le riforme che sono state richieste dalle categorie non sono state approvate, ce n'è stata solo una dei trasportatori, che hanno avuto, non con il decreto legge ma poi con un emendamento in Parlamento, la tariffa minima per i costi di sicurezza, però tutto il resto è stato bloccato, anche perché noi facciamo un'azione di vigilanza continua sulle attività parlamentari e andiamo in Parlamento a dire molto spesso che cosa ci preoccupa. Purtroppo poi però non ci sono state le riforme pro mercato, questa è la sostanza, cioè alla fine un processo che sembrava iniziare bene si è bloccato completamente, per cui da una parte noi che spingevamo come antitrust per le liberalizzazioni, tutte le categorie che invece chiedevano maggiore protezione, la crisi economica che ha fatto suggestivamente, una suggestione, lei l'ha detto bene prima, proprio nei periodi di crisi invece bisogna riaffermare i valori della concorrenza e non chiedere ulteriori protezioni poi a uno Stato che non è in grado di darle. E quindi sostanzialmente c'è stato un periodo di stallo, questo periodo dura ormai da 3 anni e devo dire la verità che l'unica riforma che c'era stata, quella sui servizi pubblici locali, poi ha avuto l'incidente del referendum. Io dico incidente perché è un referendum che aveva come punto di approdo finale, almeno nella propaganda che si è fatta, la cosiddetta pubblicizzazione dell'acqua, cioè non si voleva privatizzare il servizio di distribuzione dell'acqua. Ma non è stato mai chiarito fino in fondo che accanto all'acqua c'era l'illuminazione pubblica, i servizi cimiteriali, il trasporto pubblico locale e tante altre attività che vengono svolte dai comuni con aziende pubbliche. Ora, la mia preoccupazione, dottor Giannino, qual è? Che adesso questo referendum venga interpretato come una legittimazione popolare nei confronti della politica locale ad occupare ogni area economica e questo sarebbe disastroso per il nostro paese. Non è stato così, secondo me. Secondo me c'è stata una volontà da parte del popolo italiano di avere un momento di riflessione su alcuni temi e questo dell'acqua era il tema che tirava di più e che impressionava di più. Sugli altri servizi non c'è stato un reale dibattito, ma al di là di questo c'è anche a bocce ferme, va bene, la norma non esiste più, il popolo italiano vuole ancora le municipalizzate, siamo tutti d'accordo, dobbiamo rispettare la volontà popolare, però attenzione che queste municipalizzate devono funzionare, perché il popolo italiano non vuole sacche di inefficienza, non vuole che ci siano sprechi e gli amministratori locali lo devono sapere bene, che devono più che mai oggi dimostrare di saper amministrare queste piccole IRI, chiamiamole così. Qualcuna funziona bene. Qualcuna, in realtà i 4/5 delle 7.100 società a cui sono affidate pubbliche, a cui sono affidate la gestione delle diverse complessità dei servizi locali sono in perdita e questo ci dimostra che le parole del presidente Catricalà, malgrado la delicatezza di pronunciare naturalmente di fronte a una pronuncia popolare che è stata di massa, e lo dico io che ero presidente del comitato per il no, tra i 4 gatti spennacchiati che ha tentato di spiegare come correttamente diceva il presidente Catricalà che il quesito passato per pubblicizzazione era invece un quesito su una norma che poneva semplicemente la via delle gare di evidenza pubblica come principio generale che sta nel diritto comunitario per affidare le gare pubbliche e dovrebbe essere vista la gara di evidenza pubblica come un presidio di trasparenza per il cittadino, per il cliente del servizio, perché significa capire bene a quali condizioni tutti i soggetti pubblici come privati organizzati nelle diverse forme previste dal codice civile possano chiedere a chi poi affida il servizio pubblico come controparte di gestirlo questo servizio, con quali impegni di efficienza, con quali impegni di investimento, con quali impegni temporali di realizzazione dei miglioramenti di obiettivo, a fronte di quali prezzi naturalmente rispetto alle modalità anch'esse vigilate pubblicamente della tariffa. Invece questo principio è stato venduto a voi tutti come se fosse la privatizzazione del servizio, solo perché in una parte di quella norma si diceva che in caso in cui il gestore del servizio pubblico non volesse affidarsi alla gara pubblica ma volesse continuare ad affidarsi alla gestione in house, cioè a fare in casa propria, nel caso in cui questo soggetto pubblico affidatario del servizio senza gara avesse continuato il servizio, allora doveva aprirsi al privato per almeno il 40% o scendere fino al 30% la parte pubblica se quotati, in ogni caso, in entrambi i casi mantenendo al pubblico, come vedete, il controllo. Eppure non è stato possibile dirlo, a me hanno levato l'audio per chi ha sentito la trasmissione di Floris dicendo che avevo torto a ricordarlo. A me dispiace dirlo perché il presidente Catricalà, toccando tutti gli esempi che ha toccato nel suo resume, secondo me ci fa capire come da voi cittadini in ascolto deve venire la differenza di un paese capace di ragionare su ciò che poi serve a tutelare la vostra capacità, il potere d'acquisto, il fatto che i pochi soldini o medi soldini o tanti soldini, pochissimi di voi che avete, possono essere spesi per comprare cose migliori a prezzi poi potenzialmente più bassi per servizi migliori. Questo è il banale ragionamento a cui presiede un'autorità come quella che ha guidato in questi anni Catricalà. Se vi fate abbindolare dai titolari di rendite che vi raccontano che non è mai questo il vostro diritto, ma c'è sempre qualcun altro che pretende l'apertura del mercato perché vuole affondare artigli rapaci nelle vostre tasche, fate esattamente la convenienza di chi quegli artigli li tiene bene nelle vostre tasche, però sono artigli pubblici. Ecco, allora sono i partiti, gli amici dei partiti. Questa è in sintesi la mia opinione più tranciante di quello che del bilancio di questi anni che il presidente Catricalà ci ricorda oggi, ci ha ricordato ieri, ed è un bilancio un po' mesto per chi vuole battersi perché i cittadini possano ottenere di più, visto che grandi aumenti salariali non è che siano in prospettiva nel nostro paese. Allora sentiamo un po' le prime telefonate che immagino toccheranno i classici argomenti che già negli sms del presidente Catricalà arrivano, perché è ovvio che dal presidente dell'autorità di controllo sul mercato arrivano le classiche domande sulla benzina, i telefoni, ma questa è la verità del paese. Allora sentiamo innanzitutto Rinaldo che ci chiama da Chieti. Prego Rinaldo. Buongiorno Oscar, buongiorno Catricalà. Io dopo quello che ha riferito lei in maniera sintetica, chiarissima, non oserei dire più niente, anche perché mi associo completamente al discorso che lei ha fatto sulle, o sulla privatizzazione o comunque su un bene generale che è l'acqua. Però io voglio dire, siccome parliamo di un servizio e questo servizio deve essere gestito da chi riceve le mie tasse, mi piacerebbe sapere effettivamente con chiarezza dal mio comune quanto hanno incassato, dove sono andati a finire una parte di questi soldi e quant'altro, come è stata svolta la gara di cui dice lei. Impegnatevi a chiederlo, parlare. Rinaldo, perché questo è ciò che i cittadini devono fare. Benissimo, però siccome parliamo del servizio, che può essere anche un servizio postale, potrebbe essere anche un servizio di Vodafone, e io entro in questo merito, noi cittadini, una volta che accendiamo qualsiasi pratica, qualsiasi contratto, da allora per noi è un calvario, proprio perché non ci sono regole fondamentali a protezione del cittadino. Beh, però veramente le regole ci sono, Rinaldo. La domanda precisa è, in questo caso, per esempio, secondo te il caso più eclatante in cui lei si sente vessato è un gestore di un servizio, secondo lei non ottempera alle regole e lei si sente vessato, qual è il suo gestore telefonico? È che io accendo un contratto con Vodafone, mi dicono che il segnale c'è, mi dicono che il costo è quello e non dovrai pagare più niente, da allora si apre uno squarcio di professionalità che manca, sei su un'isola dove nessuno viene a darti una mano. Va bene, non trovi nessuno. Chiarissimo. Infatti, Rinaldo, lei dice sì, i gestori telefonici hanno ancora troppo il coltello alla parte del manico. Sentiamo anche Ferruccio da Milano. Prego Ferruccio. Buongiorno. Senta, io avevo sentito che il prezzo del petrolio in passato era stato del 40% più alto di quello di oggi, perché noi parliamo di euro e il prezzo viene fissato in dollari e il prezzo del dollaro si è svalutato parecchio. Quindi il prezzo della benzina però è rimasto uguale, quindi oggi paghiamo la benzina qualcosa come il 40% di più di quello che dovremmo pagarlo, ma è perché le compagnie che sono quelle che sono, e non è così facile immettersi su questo mercato, tranquillamente non si fanno concorrenza. Ma allora l'autorità garante che cosa garantisce? Bene, anche questo me lo aspettavo. I classici due esempi iniziali sono quello dei telefoni e poi della benzina. Ancora una terza rapidissima chiamata, poi andiamo in pubblicità e poi restiamo la parola al presidente Catricalà. Sentiamo Giovanni che ci chiama da Modena. Prego Giovanni. Giovanni in linea? No, è caduta la linea. Allora abbiamo Renzo da Genova. Buongiorno. Prego, dica. Io volevo soprattutto manifestare la mia solidarietà verso, me lo concederà, il povero Catricalà, che ha un compito immenso, sconfinato. Noi siamo in un paese dove tutto è organizzato in maniera corporativa. I tassi, gli idraulici, provi a iscriversi alla Regia Corporazione degli Elettricisti per fare l'elettricista. È una cosa complicatissima. Il compito è in mano, non sono... Incidentalmente io ho avuto un problemino con Vodafone e me l'hanno risolto dignitosamente. Nulla in confronto, ma noi paghiamo delle tariffe, delle tariffe, dei prezzi per i tassi, per la manutenzione dell'impianto di riscaldamento, per l'avvocato, folli. Quindi dobbiamo partire da zero, anzi sarebbe da sradicare tutto e rifare. Articolo 1 della nuova legge è abolita ogni licenza. Chi vuole dedicarsi a un'attività si mette lì e lo fa, perché siamo veramente un paese senza speranze. Io non riesco a immaginare come se ne possa uscire. Ecco, è la terza telefonata di solidarietà. Bene, ora dopo la pubblicità poi ricominciamo con le prime risposte su gestori telefonici e su benzina da parte del presidente Catracalà. Intanto qualche spot. Ed ecco che il gatto torna in studio, c'è il presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato Antonio Catricalà, dopo la sua relazione di ieri, che risponde alle vostre domande. Le prime due erano su i carburanti e sui gestori telefonici. Presidente Catricalà. Ma a Rinaldo, che parla di gestori telefonici, vorrei dire che non è solo l'antitrust, c'è ed è con lui, ha un numero verde che è 800 16 66 61. E basta fare una telefonata per denunciare il fatto anche in via anonima. Se c'è stata una prepotenza, noi indagheremo e avrà il nostro ascoltatore soddisfazione di sapere come procede l'istruttoria e come andrà a finire. Se invece vuole collegarsi con il nostro sito, ha la possibilità di fare da ieri, tra l'altro, la denuncia direttamente online, compilando un modulo che è sul web. Bisogna collegarsi al sito AG, Autorità Garante, AGCM, Concorrenza Mercato, agcm.it. E quindi noi su queste prepotenze, su questi piccoli soprusi, siamo abituati ad intervenire. Quest'anno abbiamo aperto 330 istruttori e buona parte riguardavano anche i gestori telefonici. Benzine, questo è un grande problema. È un problema più italiano che europeo, ma è un problema anche europeo, perché il prezzo della benzina cresce un po' in tutta Europa. Noi abbiamo una volta aperto un'istruttoria pensando che ci fosse un cartello tra i petrolieri in Italia, non siamo riusciti a dimostrarlo, però abbiamo ottenuto impegni abbastanza buoni dalle imprese, per cui adesso all'iperself, cioè al self-service che non ha la cassa ma che si paga direttamente tipo bancomat all'apparecchio, lì il prezzo è adeguato alla media europea. Viceversa, laddove c'è il servito, noi paghiamo qualche centesimo in più della media europea. Allora, noi stiamo cercando, abbiamo suggerito al governo, ma questa volta ho buone assicurazioni, che molte delle nostre richieste saranno accolte, in modo che si possa intervenire sulla distribuzione per renderla più efficiente. Per di più stiamo indagando sul PLAZ. Che cos'è il PLAZ? È un indice, un riferimento al quale si rifà tutta l'Europa per sapere qual è il prezzo della benzina. Noi vogliamo essere sicuri, e di tutti i prodotti petroliferi per la verità, vogliamo essere sicuri che questo indice sia raccolto in modo chiaro, trasparente e che non ci siano distorsioni di mercato. Cioè, la cosa che è un po' impressiona l'antitrust è che c'è troppo scambio di informazioni tra soggetti che hanno interesse a tenere alto il prezzo. Certo, se riuscissimo a dimostrare che questo PLAZ può essere migliorato, avremmo fatto bingo, perché sarebbe la prima autorità al mondo che individua un punto debole in un differimento così importante. Non sarà facile farlo, stiamo indagando, le nostre forze sono ridotte, però il nostro impegno è pieno. Ecco, aspetti un secondo, perché mi permetta di dire, questa cosa che vi ha spiegato il presidente Catricalà sul PLAZ, che è una piattaforma elettronica di raccolta di opzioni perché si formi il prezzo che poi fa di riferimento al costo industriale della benzina come viene offerto sul mercato italiano, è fondamentale, perché molti di voi continuano a credere a casa che sia il prezzo del petrolio trattato sul mercato americano, quello WTI, il Texas Intermediate, e il Brent, quello che si tratta invece a Londra, a doversi trasferire nel prezzo che viene praticato alla pompa. Non è così, perché in realtà, appunto, a essere decisivo per la formazione del prezzo giorno per giorno è questa piattaforma elettronica che raccoglie che cosa? cosa, raccoglie le valutazioni di specialisti e componenti del mercato sugli andamenti a breve futuri dei combustibili per sottomercati europei, e però, attenzione, consente di partecipare a questa raccolta di elementi su cui poi le aziende praticano il prezzo, la forbice del prezzo proposta al mercato, consente di partecipare anche dei soggetti che non sono operatori commerciali del settore, ma sono titolari di scommesse finanziarie. E allora ecco perché nella formazione di questo indice, che è decisivo per il prezzo poi alla pompa, voi capite che in momenti in cui la volatilità è molto elevata e in cui è diventato un pochino più difficile, non troppo, sui mercati internazionali portare a casa interessi a doppia cifra con cose speculative, la domanda a cui deve dare risposta l'antitrust italiano, anche se questa piattaforma è internazionale, non è italiana, cosa che complica le cose dal punto di vista normativo per fare poi l'ispezione, è: non è che per caso chi partecipa con il puro ritorno finanziario e ha tutto l'interesse a tirare sul prezzo perché si fa i soldini a casa è il vero responsabile del fatto che poi il prezzo alla pompa in Italia è così alto? Ecco, mi rendo conto che a spiegare così è un po' tecnicamente complicata, però il punto vero è questo qua, non è il prezzo del barile giorno per giorno che mi viene comunicato al telegiornale. Perdoni, Presidente Catracalà, ma questo aspetto... Ha fatto bene a fare questa spiegazione, io la omettevo perché mi sembrava molto complessa, però lei è riuscita a prenderla didascalica, complimenti. Allora, sentiamoci un altro aspetto che vedo nelle telefonate, allora ne scegliamo una nella riga di sintesi per capire, che è quello bancario. C'è Giovanni da Modena che c'ha un problema sulle banche. Prego Giovanni. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Io... volevo sollevare questa mia esperienza che mi è capitata nella ricerca di una surroga mutuo casa. Praticamente tutte le banche interpellate ponevano una condizio sine qua non nel incastrare un'assicurazione vita, che io non volevo fare, che però poi si è rivelata comunque un prestito con dei tassi elevati, e ho dovuto accettare perché non nessuna poteva farmi una surroga senza questo, incastrarci un'assicurazione vita, ecco. Poi un altro problema, sì. Io da sardo volevo sollevare anche il problema, anche se vivo a Modena da 20 anni, il problema dei traghetti che è diventato scottante. Abbiamo sentito il presidente della Regione Sardegna poche settimane fa con questo suo ritorno in grande stile a una linea pubblica di traghetti, e sembra anche tra poco, ecco, anche a una linea aerea pubblica. Io rivedevo un paio di anni fa un viaggio in Sardegna con la mia famiglia, 160 euro col traghetto e la cabina andata e ritorno, adesso... Lo so, Giovanni, lì il punto è stato che per l'apertura del mercato ai privati, i privati hanno alzato i prezzi e tutti dicono adesso torniamo al pubblico, il Presidente della Regione Sardegna torna al pubblico, quindi quale concorrenza? Pubblico, con sussidio pubblico, tariffe più basse, e la gente dice a morte i privati. Allora, il punto proprio delle polizze vita costose è precisamente contenuto nella relazione di ieri, vero Presidente Catracalà? Ho annunciato l'apertura di una preistruttoria. Questa di Giovanni è una delle tante, tantissime denunce che abbiamo ricevuto al nostro numero verde, non sono tutte le banche, ma sono molte, che collegano nei fatti la stipula di questo contratto di assicurazione vita alla surroga del mutuo, ma anche all'accensione del mutuo, e francamente ci sembra un fenomeno da indagare, e lo stiamo indagando. Anche sui traghetti, per la Sardegna abbiamo aperto una istruttoria, e un'istruttoria ovviamente non mi consente di dire nulla perché c'è stata un'ispezione e sono tenuto al segreto d'ufficio, e come sono tenuti al segreto d'ufficio, al segreto istruttorio, tutti i funzionari che hanno fatto l'ispezione insieme alla Guardia di Finanza. Purtroppo noi non abbiamo il potere di incidere sul prezzo, perché questo francamente a un'autorità antitrust non si può chiedere, può essere un effetto indiretto di una politica generale di buona concorrenza che i prezzi poi scendano. Però se scopriremo che c'è stato un cartello segreto sui prezzi, come siamo stati implacabili in altri casi, per esempio la pasta, la cosmetica internazionale, come siamo stati implacabili sul pane, come non abbiamo avuto pietà con gli spedizionieri o con le bombole di gas, anche qui sanzioneremo. Purtroppo è chiaro che questo fenomeno quest'estate credo che lo dovremmo sopportare, perché non abbiamo la possibilità di un intervento diretto sul prezzo, e questo francamente mi dispiace molto. Speravo di poter fare qualcosa se mi fosse arrivata la concentrazione relativa a Tirrenia, chiedendo come rimedio spontaneo alle parti di fare degli sconti su questi prezzi. Purtroppo questa concentrazione sembra diventare ormai così grossa da essere esaminata dalla Commissione europea, sì. E quindi i miei uffici la vedranno solamente di rimbalzo, non avremo un'interlocuzione diretta. A meno che poi la Commissione non decida di mandarci l'intero dossier, e allora la tratteremo noi, però le soglie di fatturato sono di rilievo europeo. Ancora, Gabriele da Firenze, sentiamo invece quale altra questione di concorrenza sottopone. Sì, buongiorno Giannino e buongiorno al Presidente Catricalà. A lei. Allora, io sono un titolare di un'azienda di informatica che, per farla breve, si occupa della vendita alle scuole pubbliche di software e hardware. Allora, il mio più grosso competitor è lo Stato. È lo Stato perché prima con il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, con la Consip, ma soprattutto con i vari progetti del Ministero e delle municipalizzate, realizzano di fatto di continuo software e prodotti che esistono già sul mercato e che di fatto le scuole utilizzano già. Per farle un esempio, quando il ministro, i vari ministri dicono che le scuole avranno le pagelle online e tutti questi bei discorsi, i programmi per fare queste cose esistono già. Nonostante questo, senza fare nessuna analisi di mercato, tutte le varie municipalizzate di comuni, province, regioni, nonché il ministero, si adoperano a realizzare un qualcosa che c'è già, con risultati peraltro più che discutibili, dati poi gratuitamente agli enti pubblici. Ecco, questa è una situazione che di fatto non viene controllata praticamente da nessuno ed è un enorme spreco di denaro pubblico, a mio modo di vedere. Allora, sentiamo la risposta del Presidente, però abbiamo un minuto per le informazioni sulla circolazione stradale che sono ora fissa. Eccoci tornati in studio, abbiamo il Presidente Catricalà, l'ascoltatore precedente ci diceva chi mi tutela dallo Stato che sul software tende a non passare per il mercato. Ha sollevato un problema molto importante che è allo studio dell'antitrust già da tempo, non solo nel settore dell'hardware, del software informatico, ma anche in altri settori. Ora Consip, meno male che esiste intanto, perché è un'agenzia che serve a calmierare i prezzi, però questa agenzia non può ridurre la concorrenza, né può nella maniera più assoluta favorire un organismo pubblico, un'azienda pubblica rispetto a una privata. Allora la nostra preoccupazione e la nostra interlocuzione continua con Consip è nel senso che si devono fare le gare, però queste gare devono avere offerte, noi le chiamiamo replicabili, cioè che possano essere fatte anche da soggetti non forti nel mercato per consentire l'ingresso, perché questo significa che se entreranno nuovi, noi li chiamiamo newcomers, cioè nuovi imprenditori nei vari mercati, in un primo tempo potrà sembrare che c'è un po' di confusione, ma poi la sostanza del fenomeno è che i prezzi scenderanno, i servizi miglioreranno e ci sarà innovazione. Solo quando c'è il monopolio, tra l'altro il monopolio pubblico è il peggiore, che la situazione economica e di innovazione diventa stanziale, quindi sostanzialmente stagnante. Ora sentiamo invece Giulio da Roma. Prego Giulio. Pronto, buongiorno a tutti. Io volevo sollevare una delle tante anomalie che ci sono nel sistema Italia, soprattutto un'anomalia legata ai trasporti pubblici non di linea, in particolare negli NCC, noleggio con conducente, vetture e bus. Noi troviamo che i bus hanno un sistema di liberalizzazione sostanzialmente e le vetture invece sono sempre legate alla vecchia legge 2192. Perché quindi, con le vetture il problema è diversamente regolato nelle regioni e maggiori comuni italiani e ovviamente si impatta col problema del taxi. Esattamente, lei mi ha anticipato, si impatta contro la lobby molto forte del taxi, in particolare qui a Roma, dove abbiamo visto è riuscita attraverso il sindaco Alemanno a modificare una legge nazionale, inserendo nel milleproroghe del 2009 delle modifiche alla legge 2192 con l'1 quater, ma che poi in realtà è stata di sistematicamente prorogate queste modifiche perché sono incostituzionali. Allora io chiedo al presidente Catricalà. Che cosa si può fare. Io mi sono mosso più volte anche a livello politico, sono anche responsabile di un partito per la... Lo dica allora, però, perché qui c'è un conflitto di interesse. No, ma sono responsabile, ma sono un noleggiatore e quindi porta avanti quelle che sono le... Comunque la domanda è al presidente Catricalà, che ne pensa di questa nostra questione NCC Taxi. Io mi permetto di dire, prima di dare la risposta al presidente, che siccome abbiamo un vastissimo pubblico nella categoria dei tassisti come degli autisti, la mia esperienza personale, io amo il mercato e mi sono molto occupato di questa questione e sono arrivato alla conclusione che innanzitutto le specifiche generali nazionali esistono ma fino a un certo punto, cioè la situazione è diversamente normata e con diversi problemi ancora risolti nella realtà italiana, che è diversa territorialmente. Ho l'impressione che spesso la categoria dei tassisti come oggetto di conducente abbia a essere gravata da un eccesso di giudizio negativo e di conflittualità anche reciproca, proprio perché il problema di Roma è diventato negli anni il problema di riferimento della misurazione così dell'efficacia e efficienza del servizio tanto dei tassisti quanto delle NCC, mentre diversamente la situazione è molto meno problematica, solo che poi la gente, siccome noi giornalisti andiamo per semplificazioni, i politici ci vengono dietro e per questo facciamo pagare a tutti una inefficienza generale che in realtà è un pochino meno tesa di quanto non sia storicamente avvenuto a Roma. Però sentiamo Catricalà che ne pensa. Sì, no, è vero quello che dice lei, è vero purtroppo anche quello che dice Giulio, cioè qui la sostanza è che la liberalizzazione fatta all'epoca da Bersani fu una liberalizzazione all'inizio molto forte, che metteva su un piano di assoluta parità i tassisti con i noleggiatori, dopodiché c'è stata una, in sede di conversione del decreto legge ci furono molti correttivi e tra questi correttivi la cosa più grave fu che si rimise poi ai comuni, ai sindaci, la responsabilità di completare il disegno di liberalizzazione. Nessun sindaco ha questa forza, neanche il sindaco di Roma, neanche il sindaco di Milano, cioè perché la categoria è una categoria molto molto forte, ecco perché è rimasta poi incompiuta quella idea di riforma e perché ancora esistono delle differenze molto forti ai danni dei noleggiatori che sono pregiudicati da questa situazione di prevalenza della categoria dei tassisti nelle città, soprattutto nelle grandi città. Allora, il tempo ahimè volge al termine, qui c'erano ancora moltissime telefonate, naturalmente sull'RCA le assicurazioni, che sono un altro dei settori delicati, altre invece sul settore della concorrenza elettrica e del gas. Io devo chiedere al presidente Catricalà, però a universale richiesta, di ripetere il numero verde, perché il numero verde è molto richiesto. 800 16661, quindi è 800 come tutti i numeri verdi, poi c'è 1, 4 volte 6 e di nuovo 1. Ecco, e questo è il numero verde insieme al sito che è www.agcm.it, in cui ciascuno di voi come cittadino, come se cliente di un servizio, può rivolgersi esplicitamente o anche anonimamente se andate sul web per effettuare segnalazioni sulle quali poi l'antitrust interviene aprendo istruttorie, indagini e quant'altro. Io ringrazio a nome degli italiani il presidente Catricalà, se me lo consente, per quello che ha fatto in questi anni. Questa è la sua ultima relazione, ancora qualche mese il suo mandato. Nei confronti, noi mercatisti abbiamo dei pregiudizi verso Catricalà all'inizio, io l'ho pure scritto anni fa quando arrivò. Io sono fiero di poter dire e felice di poter dire che sbagliavo ad averli, perché Catricalà si è battuto per il mercato, dando ai politici tanti di quei punti che voi dovreste essere tutti grati. Qualunque cosa continui a fare dopo, seguitilo con attenzione, perché ha dimostrato che si può fare a schiena dritta l'interesse pubblico, e in questo paese non sono poi molti a potersene vantare. La musica si alza, perché come sempre mi vogliono tacitare, ma io ho un'altra battaglia da fare. Devo ricordarvi che fino al 24 giugno dovete donare 2 euro con un sms chiamando da rete fissa o da rete mobile. Chiamate il 45502, qualunque sia il vostro gestore, ripeto 45502, perché fino al 24 giugno dobbiamo dare una mano ai nostri amici di Matti per la Vela, che è una onlus che si propone di recuperare ragazzi che hanno problemi di recupero in carico ai comuni italiani, portandoli in barca a vela. La barca insegna a essere responsabili di sé, degli altri, da ordine, disciplina, ma da soprattutto passione condivisa per la vita. Serve moltissimo a risolvere in una maniera innovativa il problema di ragazzi che non sono molto in linea con i loro comportamenti. Il numero è 45502, chiamate, e se avete, volete saperne di più, il sito è www.mattiperlavela.org. La pagina di Facebook è Matti per la Vela Onlus. Dateci una mano. La vela è una vera, grande scuola di vita. E su questo appello io concludo. Mi stanno trascinando, devo urlare, e quindi a domani, Linea Generale Radio. Che pazienza.